un'altra persona, insomma. O comunque, se ritrovo già pronto, se riprendo, forse c'è idea una persona che dico io, se solo per il battilicchio sono di lui, e magari c'è anche gli altri, non lo so. Allora c'è un negozietto a Portottone, su via Piemonte, che è roba di elettricità, ma vende anche con i tuoi, tutte queste cose qua. Se ce le ha, ma penso che le abbia. Operatore. Guarda, io ho un ricospettore che nel fatto di quelli, cioè dalla parte della data in battaglia, sai quanti anni ho, quello lì ne ho tolto, un altro l'ho rifatto, stanno sempre andando, non si sono mai mai affacciati, e ce l'ho da prima di riprendermi, e ce l'ho ancora uno spettore, e quello lì va bene, non si è mai rotto. E se per esempio ne riesci a buscarne anche quattro di questi così, e faccio due spezzoni, boom, e sono a posto, e non ne tocco più. E vabbè, riprendo anche per me, già che ci sono, se ritrovo riprendo anche per me. Come ti stavo dicendo, io ho uno spezzone che è tentato da quanto tempo c'è, faccio con quelli a fare il piede del macchinista. È tentato per andare a cantare i viraggi, però andrà sempre. Io ho già fatto lo capo, anche se tu mi impazzite, guarda, sinceramente non so neanche che età abbiano qui, ma sono sempre, se ti faccio vedere, sono sempre nuovi. E il più sospettone è l'unico che non mi dà, non mi ha dato mai un problema. Sì, sì, è vero, è vero. È vero che sono così, e ancora migliori erano gli altri, ma manco siano un paio di anni. Io non è che si lancia per guardare un sacco di lanche, chi se mi dà fare 55 e questo si tira 51. Tu? Si tira 51 mi sembra. Quelli sono buoni, lo sai, quello lì, però se ne può comprare anche uno solo, solo per l'attacco dell'antenna, quello lì, i macchinetti, e gli altri no, sono micidiali, non pida né ruggine né nulla. Sì, caccia poi i banditi, il video, salvo pure. Io prima mai cambiavo, mai mi ricordo aver cambiato ruggine, questi cazzo di pezzoni, una cosa, oddio, vai, boom, cazzo che ti ritiri, ripari come tre quarti piante e non si faccia animare. Perché quelli erano buoni, a partite per me la migliore che c'è, non c'è, ma ho inventato un unico momento tempo, da quelli non c'è mai tempo, vabbè, pratica pratica. Ma adesso non è che si mette a barito, ma il tempo lo usiamo per tutto adesso, ci sono varie cose che non fanno il tempo, ma pensa che tanto lo dico come un materiale così, un materiale di merda. Magari va bene per l'acqua perché si gonfia, ma per il resto è allucinante, è allucinante. Adesso che ci ho pensato lo posso chiedere, adesso magari si aggravino domani, non so così apri, però martedì magari ci passo, glielo chiedo, se ce li ha i macchinitti, se mi appunto, quanto li pagavi per fare questi macchinitti? Ma con il riduttore di poi? Cosa, non me lo ricordo che più quanto li pagavo, ma non portavano molto. Chi mi ha trovato più? Boh, io non lo so, ma adesso cosa posso essere in ordine dell'euro, come siamo, forse da 2 euro, 2 di qualche cosa, una cosa del genere, credo. Io mi ricordo 2,50 euro, adesso vediamo quanto vi dà Instagram. No, se vedo che sono troppo cari, prima che faccio sapere il prezzo, ma se vedo che sono 2 euro, 2,50 euro, te li pido, No, anche se sono 3 euro, piglierò a pezzi. Questa, tanto, non riesco a trovare la preferisco per me. Non trovo fuori. Ah, ti stavo dicendo, lo sai anche cosa vuoi, te? Adesso mi sono unite queste pompe, come le pompe del giardino. Sì, te, pompe, proprio, quelle già sono buone, lo turbina non rigidisce e non si spazza. Pompe per innaffiare. Pompe per innaffiare, pompe per innaffiare. Allora, l'abbiamo presa, costa cara, e credo 25 metri di tubo, 80 euro. E come questi tubi che stanno inventando adesso, non so se siano resi o cosa siano, li usano per fare i pali anche... i pali delle cose del Marcavea. E tanti pali elettrici, che sono, me l'hanno nuovo, adesso che sono già. E quindi questi qui vanno bene anche per le antenne nostre. Guarda, hanno una resistenza, sono buoni lavorati, hanno una resistenza fenomenale quanto un palo di ferro, immaginati tu. Io li ho visti lì, hanno una nuova, tutti i pali dell'illuminazione sono così. Vabbè, se anche con l'illuminazione mantengono anche le antenne, ma sono flessibili o sono tentali? E allora ci fanno bene. Ma con che lì puoi tirare 52? Sono leggeri, dice per salire. Stavo dicendo Roberto Parato una volta, dice che sono molto leggeri. E poi ci sono, più o meno all'interno sono lo spessore, ce ne sono i vari spessori, ce ne sono grossissimi, che non so quanto tenere un pezzo. Adesso va bene la misura dell'antenna, di via, dai. No, lo spessore è tipo la grossezza del corno, la grossezza del rotondo, diciamo, della circonferenza. Lo spessore del materiale. Come spessore stai dicendo? Mi dico se più rigido, è normale, dai. Le antenne devono essere cortocircuitate, non devono fare massa, cosa di una fluidità. Infatti, sono un po' lavorati e stanno mettendo anche nella rete pubblica, vuol dire che la cosa va. Ma sai cosa penso? Che con il sole, queste cose qua, spacchi, questi materiali qua, plastici. No, è proprio quello che collaudo che è stato fatto, che non spaccano neanche io, la cosa adesso non, sinceramente mi sfugge il nome di questo materiale, che poi lo chiamiamo volgarmente plastica, è come la plastica, però un altro mal mi sfugge, non so se te lo ricordi tu. Non me lo ricordo più, ma me l'hai interrotto, ma non me lo ricordo. Ma comunque... dice che è un bel resistente, che lo usano per fare i pali delle barche a vela, le barche a vela vengono di quei giardini, andare in gru e tu figura di figura, se sono resistenti. Sì, è vero. E guarda, tra l'altro, ora sto leggendo una cosa, un'altra volta, dice che messi così, anche per una relazione pubblica, se per esempio la macchina esce fuori strada e mi trovo anche grossi danni. Beh, magari perché ammortizzano il colpo. Ma comunque queste cose sono tutte invenzioni di nuovo, magari è meglio che si collaudi, non prima. Infatti, come è pulire la rete pubblica, sono stati colorati, non c'è condizione a quelli che non sono colorati, no? Non è che vate, però il progresso sta andando avanti e dobbiamo stare al progresso. Beh, se si può evitare pure chissà cosa arroci pesanti, ben venga, no? E diciamo che anche tutte le cose che stanno diciamo inventando adesso anche nella costruzione di palazzi e cose, adesso per esempio io sono dei professori azzeccari di queste palazzine che hanno fatto, sono stati costruiti interamente con le cose portanti e elastiche, e non so come ti allora non mi metto anche di chiamare, comunque anche qua non ne abbiamo bisogno, queste cose le hanno fatto lo stesso. muovono e non fanno sì che trovano. E come il grattacielo? Quello che non ci ho capito molto perché sono le cose. Cioè, c'è queste palazzine qua le hanno fatte così, e infatti degli assistamenti, anche per chi non lo so, casa nuova, altri paesi, e loro sai quando prendi una casa nuova, appena fatto può chiedere anche un tramezzo, può spaccarsi, che non si chiede niente, è naturale perché prende il caso dopo 5-6 anni iniziano a fare gli assistamenti, no? Dici che evitate queste cose. Io sono mobili più che elastici, si muovono a seconda delle escursioni del vento che c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Sono ammortizzati. Cose del genere. E quindi anche nelle edilizie i problemi sono stati avanti, le cose, poi per me c'è sempre più, diciamo, ormai la gestuzzo sì, però ci sono altre cose che fanno in modo che le case siano più flessibili, ma andiamo a vedere. Sì, chissà dove andremo a finire. Thank you. Chi